Torniamo in piazza e un anno fa, insomma, siamo state Marea, eravamo in 500.000 a Roma ed eravamo anche a Messina, sempre insomma nella stessa giornata, poco dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin e quest'anno, appunto un anno dopo, ci siamo ancora perché la situazione purtroppo non è cambiata, insomma non ci aspettavamo che cambiasse radicalmente da un giorno all'altro, ma sicuramente insomma vedere e notare come tutti i giorni intorno a noi si fa sempre, anzi quasi forse più drammatica, è demoralizzante. Ma noi non ci fermiamo e anche quest'anno, insomma, sicuramente saremo Marea, o quantomeno, insomma, ce l'auguriamo. Sabato mattina saremo in piazza. Tu citavi il femminicidio di Giulia Cecchettin. Recentemente abbiamo visto la presentazione della fondazione che porta il suo nome e in quell'occasione abbiamo visto un ministro della Repubblica, Valditara, fare un po' confusione, se vogliamo essere generosi, sulle cause dei femminicidi, accusando l'immigrazione incontrollata, quando in realtà i dati dicono altro. Assolutamente. Tra l'altro, insomma, le sue dichiarazioni sono vergognose su più livelli. Intanto perché, come ha detto anche giustamente, sempre insomma coraggiosamente, Elena Secchettina, appunto la sorella di Giulia stessa è stata uccisa da un bravo ragazzo. Infatti, appunto, anche noi abbiamo rilanciato la questione sui social dicendo, insomma, sono i vostri bravi ragazzi, perché alla fine sono proprio i bravi ragazzi, italiani, insomma, i nostri vicini di casa, i nostri fidanzati, a perpetuare poi la maggior parte delle violenze. Infatti, come riportano anche i dati dell'osservatorio, il nostro osservatorio appunto su femminicidi, lesbicidi, transicidi, l'80% delle violenze, insomma, di genere, sono violenze domestiche, sono agite appunto in casa. Quindi intanto questo, fare una dichiarazione del genere, tra l'altro appunto in un'occasione anche di ricordo di Giulia, assurdo, ma a parte questo, insomma, è l'ennesima strumentalizzazione, insomma, della destra e di una certa classe politica, appunto in chiave razzista, strumentalizzando la questione della violenza di genere per portare però in realtà avanti una ben precisa progettualità politica a cui noi assolutamente ci opponiamo. Infatti scendiamo in piazza anche per questo. Saranno due le manifestazioni, una a Roma e una a Palermo, giusto? Sì, sono due, come appunto l'anno scorso a Roma e a Messina, questo perché appunto sicuramente c'è urgenza e necessità, insomma, di essere su tutto il territorio nazionale, chiaramente, ma anche di non concentrarsi semplicemente in un punto, che può essere Roma o può essere una qualsiasi altra città che spesso è comunque, insomma, spesso volentieri inaccessibile per chi viene dal sud piuttosto che dalle isole, e soprattutto anche per ribadire appunto la nostra, insomma, trasversalità sul territorio e anche, insomma, la nostra presenza non soltanto al nord o non soltanto nella capitale o anche qui appunto in un luogo che può essere un luogo del potere sotto qualsiasi livello. E quindi, insomma, ci siamo ovunque, anche a Palermo e anche a Messina l'anno scorso. Da Bologna vi state organizzando collettivamente? Sì, abbiamo organizzato i nostri bus come ogni anno, anzi ci sono, insomma, gli ultimi biglietti che stanno finendo, e approfitto appunto per lanciare anche qui, insomma, un invito per chiunque voglia scendere con noi. Potete trovare appunto tutte le informazioni sui nostri canali social o scrivendoci sui social media. Però appunto i biglietti stanno finendo, anche quest'anno appunto stiamo riempiendo i nostri bus, e quindi scenderemo tutte e tutti insieme, appunto.